C'è uno spot, una scenetta pubblicitaria, un carosello, chiamatelo un po' come volete voi, che a intervalli regolari compare sui nostri teleschermi e che ogni volta che mi capita sotto gli occhi mi manda regolarmente in bestia. Mette in scena due esponenti delle più giovani generazioni, di quelli che non si fanno tatuare. Una ragazza dall'aria abbastanza peperina in jeans e camicia bianca e un giovane troglodita che evidentemente se la mangia con gli occhi. L'azione, nonostante la brevità tipica di quel genere drammatico, si articola, diciamo così, in due atti. Nel primo lei chiede a lui: belli i miei jeans? Facendo opportunamente dondolare quella parte del corpo che più di ogni altra da un paio di jeans può essere avvalorata. E sì, borbotta cupido lui, facendoci capire che col linguaggio articolato non ha troppa familiarità. Nel secondo atto entrambi sono di fronte alla vetrina di una pasticceria. Quante cose buone, esclama lei, insinuante. Il bruto, alla prospettiva dell'azione, ritrova il dono della parola ed esce in un deciso «dai che ci strafoghiamo». Bravo, ribatte lei, e poi qui chi ci entra? Intendendo per qui però i propri pantaloni, alla cui cintura dà una tiratina in avanti come per permettere al partner di dare un'occhiata all'interno. E poi passa a spiegare agli spettatori che solo tal prodotto dolciario, che pur essendo a base di cioccolato è fresco, leggero e povero di calorie, può garantire al tempo stesso il massimo della soddisfazione orale e il minimo del sovrappeso. Non consideratemi dei gusti difficili, io quella pubblicità non riesco proprio a sopportarla, mi innervosisce da matti. Vedete, mi rendo conto che i tempi sono quello che sono, che oggi chi deve smerciare un prodotto a base di cioccolato non può limitarsi a vantarne la squisitezza, deve garantirne l'innocuità, assicurando che nonostante tutto quel che si dice non fa ingrassare, almeno non tanto. C'è il rischio che il messaggio a questo punto suoni come una scusa non richiesta, che è sempre una manifesta accusa, ma non se ne può fare a meno. E lo impone la cultura corrente, lo esigono le condizioni sanitarie di questo nostro mondo sviluppato, ipernutrito. Ma porca loca, mi chiedo, porca loca, era proprio necessario attribuire il messaggio a quei due tipi lì, secondo quel modello di interazione? Non so a voi, ma a me il modello della giovinetta lusingatrice che prima inziga il maschio voglioso e poi in nome di un valore superiore lo invita a trattenersi, proponendosi nel caso un palliativo, non ricorda affatto il cioccolato. Mi ricorda la dialettica tra i sessi, o se preferite le tecniche di corteggiamento in uso ai tempi della mia giovinezza, tanti, tantissimi anni fa. Dialettica e strategie che credevo ormai scomparse, travolte dalla rivoluzione sessuale degli anni 60, dall'avvento di costumi più liberali. Mi ricorda un insieme di pratiche che, pur se largamente diffuse, ben poco garantivano la felicità dei giovani uomini e delle giovani donne che se ne servivano, e assicuravano anzi a l'une e agli altri il massimo di frustrazione e altissime probabilità di una vita futura assai poco appagante da quel punto di vista. E siccome mi preoccupo molto della felicità altrui, l'idea che tutto questo si fosse perso nella notte dei tempi avevano dei pochi motivi di conforto che provavo pensando agli anni che mi è capitato di trascorrere. Invece no. Con il banale, mortificante pretesto di venderci un cioccolatino, qualcuno sta proponendoci pari pari quello schema, e questo vuol dire che quel qualcuno pensa che funzioni, che sia convinto che la gente ci si identifichi, che sia sicuro che i consumatori accettino senza fiatare l'ipotesi che il compito delle signore sia quello di lusingare prima e di dare lo stop poi. Certo, può darsi che il committente di quella pubblicità sia uno che non ha capito niente dei tempi, che si affida a modelli di comportamento sociale ormai superati. Magari è uno che subdolamente quel comportamento intende proporre e propagandare, servendosi della diffusa paura del peso superfluo come cavallo di Troia. Magari scava scava si finisce per scoprire che c'è dietro Wojtyła, o più modestamente Formigoni. No, Formigoni no, altro da fare in questi giorni. Ma il guaio è che forse quel committente è uno che ha capito tutto. Uno che sa che i tempi non sono cambiati, e che quelli che credono che lo siano sono dei poveri illusi, dei vecchi hippies fuori dal mondo. E poi vi stupite se quello spot mi innervosisce?